Dicono che le storie migliori si possano riassumere in tre righe o in tre parole. Quello che è certo è che tutte le storie che abbiamo letto ci rimangono in testa per pochi dettagli, tipo il protagonista, l'antagonista, l'inizio o la risoluzione finale. Se però ci chiedono di riassumere un libro, non sempre noi siamo capaci di farlo. O comunque quello che ci rimane in testa è sempre una selezione piccola e parziale di quello che abbiamo letto. Ad esempio, se penso ai Promessi Sposi, mi vengono in mente un uomo e una donna della provincia di Como che si devono sposare ma non riescono per colpa di un prete, per colpa di uno di cui non si sa il nome e per colpa della peste. Se penso al Gattopardo, invece, mi viene in mente un signore ricco della Sicilia che ha capito come vanno le cose e altre signore del Piemonte che invece fanno finta di non avere capito come vanno le cose. E poi mi ricordo questa frase: cambiare tutto per non cambiare niente. In questi giorni mi è ricapitato in mano un romanzo che tutti quanti hanno letto. È il romanzo di formazione per eccellenza, quello in cui un giovane viene cacciato dalla scuola, torna nella sua città, parla con la sorellina e si nasconde nel parco. E lì diventa grande. E mi sono accorto in questo fine settimana che rileggere i libri che abbiamo letto è più utile di quanto pensassi. E soprattutto che fare lo sforzo per cercare di riassumere le storie che abbiamo letto negli anni passati, anni fa, soprattutto se quelle storie sono belle, ha un senso. Ecco perché, se oggi volete farlo con me, io sono qui.